11.09 ai microfoni di Radio Blackout su 105.250, Parole Ribelli comincia la sua ultima puntata stagionale. Rispondiamo subito al messaggio che è arrivato, che dava rimostranze per aver interrotto lo speciale. Informiamo che lo speciale durava 50 minuti, quindi non ce ne vogliono gli ascoltatori o l'autore del libro, Ricciardi, ma dovevamo cominciare, insomma. Non possiamo lasciare, non possiamo andare verso questa caldissima estate senza salutare le ascoltatrici e gli ascoltatori di Radio Blackout. Un ciao a tutti e tutte da Eddie. Un ciao anche da Francesca. Specifichiamo anche che l'interruzione è stata fatta con l'autorizzazione di Maurizio dall'altra parte del vetro, quindi abbiamo la coscienza pulita. Comunque, per chi invece va a piacere di ascoltare integralmente l'audio, lo trovate su radiocane.info. Ci sono appunto entrambe le parti complete. Quindi niente, un buongiorno a tutti e a tutte. Vi ricordiamo come sempre i contatti: il numero di cellulare 346-667-3263, il numero del telefono fisso 011-249-5669. Sul finire dell'info, tra l'altro, è arrivata la notizia di un gruppo di compagni fermati all'altezza di Corso Dante. Ovviamente, se ci fossero aggiornamenti, mandateceli, che li riferiamo immediatamente. Questo è quanto, vi lasciamo un breve pezzo musicale, poi andiamo a presentarvi la puntata di quest'oggi. Ne fumo una, sei speciale, poi valuterò se farne un'altra subito, aspettare di sapere prima come sto. Amo gremare molto più di un po', ma solo quello che è più buono. Una sei speciale, poi valuterò se farne un'altra subito, aspettare di sapere prima come sto. Amo gremare molto più di un po', ma solo quello che è più buono. Cime su cime ci metto, rime su rime rimetto, porta passeggio l'effetto mentre palleggio di detto corretto. Mi piace il profumo del fumo che fumo, mi scopro e mi riassumo in un ginepro più grasso del sumo. Mi intono con quello che è intorno, mi dono sul quaderno ogni giorno, dei vizi che inforno per lo stone con i flussi di adorno. Ogni misto una festa, bel tempo tempesta, vivo nei sogni da quando mi sono in testa. Svario variabile, volo più gonfio del dirigibile, brucio tutto ciò che è gremabile, ma solo se appetibile, sono troppo sensibile. Pattanze, spugne, tenere, tenere, da tenere, comode, comode, usanze mai demode, come detto sulla loma bomale, connettere, connettere, do genere alla cenere, sascumale, tu chiamale se vuoi emozioni, storie di frichettoni con i gremi più buoni, mentre parlo agli amici immaginari dei miei sbarioni. Ne fumo una, sei speciale, poi valuterò se farne un'altra subito, aspettare di sapere prima come sto. Amo gremare molto più di un po', ma solo quello che è più buono. Una sei speciale, poi valuterò se farne un'altra subito, aspettare di sapere prima come sto. Amo gremare molto più di un po', ma solo quello che è più buono. E 14 sui 105.250 e andiamo dunque a presentare la puntata di Parole Ribelli di oggi. Inizieremo come sempre con un po' di rassegna stampa, di articoli degli ultimi giorni che riguardano insomma le tematiche di cui più ci occupiamo, quindi in particolare università e dintorni. Poi andremo in collegamento con il Lucernario Occupato, uno spazio occupato autogestito dentro l'Università La Sapienza, che proprio ieri è stato, diciamo, in maniera abbastanza regolare per quello che è il trattamento che abbiamo visto per le esperienze di autogestione ultimamente, quindi l'università si allinea perfettamente alla gestione dei territori tutti nel non dialogare minimamente con gli studenti che reclamavano i loro bisogni e nel far trovare i sigilli una mattina sullo spazio. Ieri i compagni e le compagne hanno rotto questi sigilli, sono rientrati, ma sentiremo loro per farci dire di più. E sempre a proposito di spazi autogestiti in università, andremo a dare qualche aggiornamento anche su un'esperienza molto simile a quella del Lucernario, ma insomma a noi più vicina geograficamente, che quella della biblioteca autogestita del terzo piano. Venerdì c'è stato un incontro in rettorato per insomma chiarire le minacce di sgombero che incombevano sullo spazio. Insomma, andremo a dare qualche aggiornamento, fortunatamente almeno per il momento positivo. E poi sempre sul filone che abbiamo un po' inaugurato la scorsa puntata, che parlava di social, web, usi e controusi, sentiremo una compagna del collettivo di filosofia radicale Ippolita, che ha appena pubblicato con La Terza questo saggio, questo libro che si chiama La rete è libera e democratica, falso, che insomma smonta un pochino questa visione della rete come spazio piano, spazio dell'uguaglianza, spazio in cui si parte tutti dallo stesso punto. Quindi andremo a sentire Anahi, che ci spiegherà un po' meglio nello specifico il loro lavoro. E questo è quanto, vi lasciamo un breve stacco musicale, poi iniziamo a entrare un po' più nel vivo della puntata. Buon ascolto. Roba inedita, in esclusiva per Minimix Man. E la base cerca la respirazione, sopra un luce cerca la respirazione. C'è chi fa sempre le scelte più opportune, io ne seguo alcune. Ho una necessità che non soddisfo, ma insisto, nel sottosuolo tipo Conte di Monte Cristo, scavando a mani nude assieme a chi con me si illude, perché l'avverte, porte che si sono aperte nella mente, la percezione extrasensoriale di un b-boy nello stivale, originale, un afro in corso Matteotti, flusso lirico a fiotti, ora lo sai con chi fotti, un caposaldo di disperati allo sbando. Amore, se sono musica è per vocazione, se sono magica è perché conosco ormai da anni, perché sono alla frutta più che a militari nonni. Lo sai che vi ho più rime io che donne Don Giovanni, ma sai che sono pronto a tutto per i miei fratelli, per quelli che verranno, quelli che ora non sanno, per quello che faranno. La vera scuola, la vera banda, suona e cerca pace sopra un loop, cerca ispirazione sopra un loop. Chi cerca trova, chi trova e prova ancora, chi prova e non ci arriva, chi aspetta e spera. Qualcuno copia mentre un altro sclera, molti bleffano, tanti smettano, ma sono di più quelli che arrivano. Altri arriveranno e saranno sempre di più. Sunset clause, no wonder they demand more. Nobody planned for Brazilian cuts in the pubic crotch of a land caught in a Mexican standoff. Picture a poverty stricken finger, pushing on the hairpin trigger, and pause. Can't deny my stress, I know better than to blame the wild, wild west. The terrain that I address is a mindset. The bigger the jail, the less serious the crimes get. So the tumbleweed rolls through these empty streets. They shot the sheriff, all we have is the deputy. And he definitely does not want to rock the boat, so we work hard, chop and gloat to forgive me. JFK straight shot, Great Lake paying for it. Hate makes the air foggy, S.A. takes notice, play it safe, same result. The day we claim, get the rainbow, so to y'all, you get wise away to the new realize the tape resolve, make a law, take a farm. You get out your head, cause I've seen the roof rap, then I hand out, with the arms embargo, better be my own Zimbabwe, to call and power to swallow my role and arrow and follow that, with a chosen angle to photograph, my ass, no apparel to cover from all of that. Nasty, all about poverty, playing at all caps. Skin too thick, get a little tin of acne cream. Or Vaseline, you wait till them Somali kids give you a take from that Bruce Wayne alley scene. Bring up the marching band, let them play an anthem for Wakanda. You and them watch the plan, liberate the mind, but forgot the land. Bring up the marching band, let them play an anthem for Wakanda. Hey, liberate the mind, but forgot the land. 11.25, allora iniziamo come promesso con un po' di rassegna stampa. Partiamo da un articolo che è uscito nei giorni scorsi online sul sito roars.it, dal titolo L'università italiana non è quasi gratis. L'articolo parte da una serie di dichiarazioni di Giavazzi, che nel 2010 e poi anche 2 anni più tardi scrisse sul Corriere della Sera che praticamente in Italia non ci si poteva più permettere un'università quasi gratuita, con rette che coprivano meno di un terzo del costo degli studi, e che se i poveri non potevano permettersi di mandare i figli all'università, il problema era che gli stessi poveri con le loro tasse pagavano l'università sostanzialmente gratuita per i figli dei ricchi. E rincara poi con le dichiarazioni di un tale Andrea Moro, che sinceramente non so chi sia, ma che diceva: in Italia il principio del diritto allo studio è stato attuato attraverso l'università gratis o quasi per tutti. Vabbè, insomma, basterebbe essere iscritti all'università per sapere che questo ovviamente non è vero, però questo articolo propone poi tutta una serie di dati che attraverso un grafico incrociano sostanzialmente due parametri. Da un lato l'ammontare delle tasse universitarie e dall'altra la percentuale di studenti che usufruiscono di forme di sostegno per quindi di diritto allo studio, e l'Italia è terza in Europa per l'ammontare medio delle tasse universitarie, quindi siamo tra i paesi che pagano le tasse universitarie più alte, dopo ovviamente il Regno Unito e i Paesi Bassi, ma in cui appunto la quantità di servizi poi erogati per gli studenti sta invece nei posti insomma nelle posizioni più basse. E andiamo avanti con un paio di articoli usciti sul Fatto, diciamo un po' sempre nello stile vuoto che abbiamo visto caratterizzare l'informazione sull'università negli ultimi tempi, ovvero carrellate di dati senza grande fantasia. Quindi il primo è una classifica delle migliori università al mondo, che rileva come sostanzialmente le migliori università italiane siano quelle private sostanzialmente, o l'ultima, diciamo, che chiude la top ten sia il Politecnico di Torino, che è, come abbiamo già commentato altre volte, lo ripetiamo, un ibrido abbastanza riuscito, un avamposto di ibridazione di università tra pubblico e privato, che poi di fatto si risolve in nulla di tanto differente da quello che succede in qualunque altra università, ovvero non vengono minimamente calcolate le esigenze degli studenti, i profitti che si fanno sui saperi esistono, la circolazione dei saperi stessi avviene in un solo circuito. L'unica differenza credo sia un efficientismo maggiore, un'efficienza molto più, diciamo, catalogabile. A questo proposito, diciamo, ne abbiamo già parlato altre volte, abbiamo visto come si, appunto, questo catalogare e valutare gli atenei poi di fatto non sia proprio una pratica neutra. Abbiamo visto nascere l'ANVUR, l'Agenzia Nazionale della Valutazione per la Ricerca Universitaria, anzi l'Università e della Ricerca, e abbiamo visto, diciamo, come la musica stia cambiando per quel che riguarda il criterio con cui si valuta il prestigio di un ateneo. Quindi c'è una piccola equazione, si fanno entrare un po' di numerini, e se il risultato è quello giusto l'ateneo vive, se non è quello giusto non vive. Ora, questa detta proprio in termini abbastanza tagliata con l'accetta, però di fatto la cosa interessante è innanzitutto l'ennesima valutazione dall'alto degli atenei, perché poi quale sia il livello di soddisfazione, di piacere nel frequentarlo da parte di chi lo vive in fetta maggioritaria, ovvero gli studenti, ovviamente non rientra, se non appunto l'estensione di alcuni di questi questionari attraverso i professori, che ovviamente li danno a chi di dovere, e poi il consulto degli studenti lì si ferma. Ma soprattutto sembrerebbe che questo Anvor aiuti anche a tagliare una serie di rami secchi dell'università, fa tutta una serie di ritornelli che sull'università pubblica abbiamo sentito più e più volte, che possono anche essere reali, però diciamo diventano poi il pretesto per dei cambiamenti che vanno ad incrementare solo alcune logiche del tutto arbitrarie e non una questa assoluta efficienza che poi non esiste. Quindi di fatto questa valutazioni come usare i dati Anvor degli Atenei, questo articolo si risolve in un nulla di fatto, perché ci dà questo, appunto, questa carrellata di dati dicendo che le università più grandi sono quelle in cui ci sono più inattivi e che le università più piccole cercano un po' di avere più sotto controllo, e poi si rifà alla, diciamo, alla notizia che diceva anche Francesca prima, ovvero le tasse universitarie, come confrontandole con altri paesi, valutando che poi di fatto l'Italia è tutt'altro che accessibile come università, senza poi esprimere un giudizio di fatto, se non una vuota o comunque una posizione di fatto, se non la vuota retorica contro baroni e gerontocrazie varie. Bene, vi lasciamo un po' di musica prima di prepararci alla prima diretta da Roma con i compagni e le compagne del Lucernario Occupato. E nel frattempo arrivano sms che chiede conto di quanto dicevamo prima rispetto a Corso Dante, quanto ci è stato riferito è appunto che se i compagni sono stati fermati dalla Digos mentre si trovavano appunto lì nei paraggi, dopodiché non abbiamo più avuto aggiornamenti, per cui non sappiamo dire altro per il momento. Se ne dovessero arrivare li riferiremo subito. E mentre leggevo è arrivato anche un altro sms che ci segnala controllo di documenti è arrivato allora un aggiornamento da Corso Dante. Ci tranquillizzano, dicono controllo di documenti e solito rotture di palle, ma tutto ok, siamo già andati via, i sei fermati con faccina sorridente, quindi niente, ci tranquillizziamo anche rispetto a questa notizia e vi lasciamo al pezzo allora. J'ai pas peur du micro, donnez-moi le tempo, j'anime le show avec mon flow. J'ai pas peur du micro, donnez-moi le tempo, j'anime le show avec mon flow. Ma pégéra qu'à son épicine du vol, petit vérité, ma liberté qui vole. Parce que ta manipulé, il faut seulement bouger. Que tu sois des restes, il faut seulement bouger. Que tu sois du souffle d'or, il faut seulement bouger. Le temps est vraiment petit, tu dois t'aller au chanté. Y'a pas de rap, c'est qu'il a été à l'étranger. Que tu vas pas déranger, tu vises la vie. Voici le show, là on n'écrit pas le flow. Le style à mon niveau et je m'éloigne du faux. Certaines dans les bureaux veulent se mettre plus haut. Mais dans le ghetto on se met plus d'être faux. À propos des concerts, on n'écrit pas le boulot. Par-ci, par-là, le public est là. Mais dans les lettres, il y a moins de bureaux. Je rappe à l'esprit que mon flow soit balèze. Parfois pour tout le reste, et j'ai pas peur du micro. J'anime le show avec mon flow. J'ai pas peur du micro, donnez-moi le tempo. J'anime le show avec mon flow. J'ai pas peur du micro, donnez-moi le tempo, j'anime le show avec le flow. J'ai pas peur du micro, donnez-moi le tempo, j'anime le show avec le flow. J'ai pas peur du micro, l'orchestre te présente mon allié. La lumière de l'obscurité de ma cage d'escalier. Envoie la vibe, mes tripes dans le son. Porte des dignes, joyeux comme une maison d'enfant. Sans toi, sans marco, vivant du sarco. Trappe en arco, début de marche jusqu'à bon marco. On demande à Sam, les chaises dans le cœur et pas dans le magot. Et on prend en marche, on est rentré en froid dans le wagon. Préviens les vigiles, on a la loupe avec nous. On touche tes mains, la porte est plus la verrouille. Préviens les vigiles, on a la loupe avec nous. Pas par la tête, la porte est tenue par les loups. J'ai peur du micro, donne-moi le tempo, j'anime le show. Avec un flow. J'ai ma peur du micro, donne-moi le tempo, j'anime le show. Avec un flow. C'est pas tout pour le monde, et pour le guest, voilà, on se prend. Le pas que pas tard, le pas que pas tard, le pas que pas tard, le pas que pas tard, le pas que pas tard, le pas que pas tard, le pas que pas tard, le pas que pas tard, le pas que pas tard, le pas que pas tard, le pas que pas tard, le pas que pas tard. the tears apart and brings us together. So I'm asking you, hey, is it enough? Will it bring us to the end? And is it enough? Is there my cup and the band? When my battle is empty, does my alternator kick in like a good friend? Bringing us back to the beginning, feeling with inspiration, the moment it's so. The love we keep inside is made to grow. Multiply, let you know that you're not alone. In a time when you're home, that's about the people, not the party, let's go. Baby girl in the back saying, now we on a roll. We all stepped up, you heard it before. No bosses, no party, and now we in control. We'll reach a rave, let's go. The love we keep inside is made to grow. The love we keep. The love we keep inside. The love we keep. The love we keep inside. The love we keep. The love we keep inside. The love we keep. The love we keep inside. And it's drowning dog, block out the former, microplatform. And we can't stop. Yeah, yeah, the love we keep brings us together, tears us apart. E allora siamo in diretta con i compagni e le compagne del Lucernario. Ciao Francesco, ci senti? Ciao, eccoci, ciao a tutti e a tutte. Ecco, buongiorno a te, con te vorremmo un po' ripercorrere quello che è accaduto ieri mattina, entrando insomma al Lucernario occupato, questo spazio autogestito ormai da ottobre, correggimi se sbaglio, avete trovato le porte completamente sbarrate, sigillate, era stato portato via anche del materiale, questo ovviamente seguendo una decisione del rettore Frati, che evidentemente ha deciso di usare verso gli spazi autogestiti in università un po' lo stesso pugno di ferro che stiamo vedendo anche rispetto ad altre esperienze di occupazione in queste settimane, ma sappiamo anche che non vi siete fatti scoraggiare, che siete poi subito rientrati per fare un'assemblea assieme a tutti gli altri studenti. Quindi ti lascerei la parola per spiegarci un po' che cosa è successo, insomma, come si è poi evoluta la giornata. Eh sì, Vicente, dicevi bene, ieri mattina siamo arrivati come tutte le mattine ormai da ottobre a Lucernario per aprirlo e attivare l'aula studi e vari progetti e iniziative che ci stanno. Abbiamo trovato le porte saldate. Detto questo, abbiamo subito riaperto il Lucernario per scoraggiare. Francesco, non ti sentiamo bene, puoi alzare un po' la voce solo? Mi senti? Sì. Sentite? Ecco, dicevo che quando siamo entrati abbiamo trovato la desolazione del Lucernario, perché avevano portato via tutto, proprio tavoli, sedie, avevano smantellato anche i tavoli autocostruiti in cui avevamo creato l'aula studio all'aperto da ormai qualche mese, quindi proprio con la volontà non solo di chiudere il posto, ma anche di cercare tutto quello che questo posto ha significato nei mesi per gli studenti che l'hanno attraversato. Abbiamo convocato un'assemblea pubblica che molti studenti e studentesse sono subito accorsi anche prima di questo appuntamento a vedere cosa era successo e a mettersi subito all'opera per ricostruire quello che avevano provato a distruggere nelle ore della mattinata di ieri. Un'assemblea molto molto partecipata che ha deciso di provare in qualche maniera a interloquire con il rettorato e l'amministrazione, che era anche venuta per tentare di spiegare quello che era successo, però ovviamente rifiutando di uscire dallo spazio, che era quello che ci veniva richiesto per lavorare una discussione con il rettore e vari dirigenti. Quindi abbiamo deciso di riportare al mittente insomma questa richiesta, dicendo che noi volevamo sì una discussione con il rettore, ma da dentro questo spazio e non circolante, lasciandolo a loro. E la giornata poi è continuata con abbiamo ricostruito l'aula studio, molti studenti e studentesse sono venuti e ci hanno aiutato a ricostruire quello che, come dicevo prima, avevano provato a togliercelo. E abbiamo subito rilanciato sia nel pomeriggio di ieri con un aperitivo, sia per invece la giornata di domani con un corteo interno che si muoverà da sotto il museo per andare al rettorato e chiedere al rettore che si apra una discussione su quanto è successo, perché sono due un po' i temi che a noi ci interessa sottolineare. Da una parte chi va a decidere all'interno dell'università, perché come le dinamiche di questo sgombero sono tramite un decreto rettoriale, per cui è stata chiesta venerdì scorso anche l'intervento direttamente della Questura di Roma in caso non ci fosse stata la possibilità di sgomberare lo stabile, senza invece chiedere agli organi collegiali o ai rappresentanti, e neanche senza prendere in considerazione la comunità di 160.000 studenti che poi ogni giorno realmente vivono e attraversano l'università. E dall'altra che venga riconosciuto il valore che ha avuto il lucernario come spazio autogestito, spazio occupato, e soprattutto come una reale dimostrazione di quali siano i bisogni all'interno della città universitaria. Quindi parliamo di sì aule studio, biblioteche, spazi autogestiti, ma parliamo anche del progetto proprietà privata, quindi di un discorso sul costo della cultura, il costo dei libri all'interno dell'università, più che di altri laboratori e anche la club che sono nati all'interno dello stesso lucernario. Quindi sono un po' queste le tematiche che anche domani andremo a portare, perché a noi ci interessa pure questo discorso vivo, è importante che non lo sgombero del lucernario, anche se mai avvenisse, perché ci sono dei progetti sopra quello stabile, non può sgomberare poi invece l'idea dietro a questa esperienza, a questo laboratorio politico, che sicuramente, se non sarà lucernario, rinascerà in altri spazi abbandonati all'interno dell'università, un'esperienza che indica bene chi dentro l'università vuole far profitto, vuole speculare, vuole continuare a dare spazio ai privati, chi invece dall'altra parte, partendo da esperienze di autogestione e di auto-organizzazione di studenti e studentesse, vuole invece creare un'università diversa, un'università che studente ripudia ogni presenza di profitto, anche di rendersi silenziosi e obbedienti, che è quello che un po' l'università e l'accademia oggi vogliono da chi entra all'interno dell'università. Domani sarà questo corteo in cui andremo a chiedere al rettore conto di quello che è stato fatto, delle modalità in cui sono state fatte e del perché per risolvere i problemi dell'università bisogna mettere in campo la Questura di Roma. Ovviamente, come dicevate voi anche all'inizio, il pensiero va al pugno duro che prefetture e questure stanno avendo a Roma sugli sgomberi, soprattutto le occupazioni abitative, ma anche nel resto d'Italia. È un filo conduttore per cui determinate esperienze di resistenza, di laboratori politici anche che vogliono costruire altro all'interno delle città, all'interno dell'università, vengono trattati alla stessa maniera, quindi ovviamente zero dialogo, ma solo forme di repressione che sono lo sgombero, che sono poi anche arresti o altro che sono venuti a Roma come nelle altre città, come dicevo in precedenza. E un altro appuntamento importante è sicuramente la street parade del 27 di venerdì, che dalle 5 si muoverà dal quartiere universitario di San Lorenzo per andare a segnalare gli spazi vuoti ed abbandonati nel quartiere universitario e nei quartieri limitrofi, per andare a dimostrare che insomma gli spazi ci stanno, ma ci sta una volontà politica di far sì che questi spazi non vengano poi dati, in questo caso per esempio per alloggi universitari, le case per precari, famiglie o migranti, una street che finirà all'interno della città universitaria, che dopo questo sgombero assumerà Valenza è un significato molto più importante, finendo proprio sotto Lucernale, a dimostrare ancora che gli spazi, quando anche ci vengono tolti, li ci riprendiamo senza nessuna paura. Ovviamente Lucernale è ancora sotto sgombero, che la nostra risposta di ieri non ha risolto la questione, tutto questo aspetto. Quindi oggi stamattina siamo arrivati molto presto all'università, abbiamo riaperto il lucernario che adesso è già pieno di studenti e di studentesse. Questo pomeriggio dalle 5 in poi ci sarà anche un aperitivo in cui passeranno tutti i vari DJ, cantanti, musicisti che hanno animato le serate all'università di questo anno, e domani, come dicevo, il corteo. A un altro sgombro sempre risponderemo come abbiamo fatto in maniera tempestiva ieri, lo sanno bene, insomma, vedremo come ci aggiorneremo, come andrà avanti questa storia. Sì, ovviamente, tra l'altro sappiamo bene che per questo tipo di esperienze, quindi per gli spazi in università, l'arrivo dell'estate rappresenta sempre il momento più problematico. Infatti penso sia anche molto provocatorio e arrogante aver deciso di fare lo sgombero a lezioni ancora in corso da parte appunto delle amministrazioni universitarie, però appunto sicuramente importante fare quello che avete fatto, quindi imporre da un lato dei momenti di discussione di rivendicazione delle vostre istanze con il rettore, e dall'altro prepararsi anche, insomma, a guardare avanti e sicuramente non farsi fermare da uno sgombero. Quindi niente, non possiamo che farvi un in bocca al lupo per queste settimane, per le prossime iniziative. Sicuramente ci riaggiorneremo con nuove notizie. Grazie, alla prossima. Ciao Francesco, grazie. Ciao Francesco, ciao. Grazie mille. Ebbene, questo è quanto da Roma, tra poco andremo a darvi anche qualche aggiornamento dalla biblioteca autogestita del terzo piano, nel frattempo vi lasciamo a un breve stacco musicale. Ladies and gentlemen, just a word of warning. If any of you are not convinced that you have a tinker of your own, the next time you are frightened in the dark, don't scream. If you wanna run hard and you wanna push hard, but there's people standing in your way, try to stay calm. Don't scream. When you're getting lost in the bars, when the darkness in your heart and you feel you lost your way, don't scream. Run hard, you gotta push hard, but there's people standing in your way, try to stay calm. Don't scream. When you're getting lost in the bars, when the darkness in your heart, don't scream. If you wanna run hard and you wanna push hard, but there's people standing in your way, try to stay calm. Don't scream. When you're getting lost in the past with the darkness in your heart and you feel you lost your way, don't scream. Run hard, you gotta push hard, but there's people standing in your way, try to stay calm. Don't scream. When you're getting lost in the past, yeah, the darkness in your heart, don't scream. Yeah, people say it's happening around the world, it's easy. Making stacks of pieces of reason, it's just reason. Sure, it's got its bonuses, the fans is like a dream. But with a gun, a kid at home alone, and the phone never seen. But believing is achieving, I believe that. Brave that, see that. Deep inside my heart, I always knew that. I would be a father to my daughter, no bullcrap. I don't give a fuck if you don't feel that. Call me a bag of chaff. Live my life for one day, then come back. Tell me how you feel, how you have a tap. Judgmental whack, backstabbing, jealous twats. Know your facts first, but you get hurt. Jump on that, you want that, you did that. It's all about your tactics. So think first before you act drastic. The mic is smashing. It's the one that used to run the microphone for now. If you wanna run hard, then you wanna push hard, but there's people standing in your way, try to stay calm. Don't scream. When you're getting lost in the past with the darkness in your heart and you feel you lost your way, don't scream. Run hard, you gotta push hard, but there's people standing in your way, try to stay calm. Don't scream. When you're getting lost in the past with the darkness in your heart, don't scream. I'm like a rock, if you're thinking you can try and move me. I never scream, even when I watch a horror movie. Apart from the exorcist, too deep. My breathlessness will push a man right over the edge. Anyway, the message is simple. Yeah. The message is actual. No time for no fiction. Yeah. Let's keep it all factual. The first of a rap book. A bottle to pace high. Help them escape life. They're screaming, I can't lie. Don't scream. Face your fears. Fears gotta be faced. Nightmares get trampled. Dreams you gotta chase. I'm sipping on success. It's such a beautiful taste. Throwing away your life, it's not a beautiful waste. There's more to discover. Hear me, my brother. Reframe your picture. Hear me, my sister. Me, I'm unstoppable. I fly over brick walls. Music goes and I reply when the beat calls. Don't scream. Don't even make a sound. Don't scream. Don't even make a sound. Don't scream. Don't even make a sound. Don't scream. Don't even make a sound. Yeah, hard time to go in, cause giving it large. Man, I got them barrage of bass heads. Salute your paws. Stay on gas, stopping to go hard. Bigger than them bars, you're spitting, you know what? Blast. Back in the day, trying to push through to the first place. Blitz in the face, bare times, I told her was waste. Every step I seem to take turns into a long bass. I'm back in the day, ducking and diving with Jake's mates. Going up to the front of the car, we did a move already drunk. When a man down outside the door side, who could be getting rocks? Don't wanna be getting one, two guys in the kitchen, you just got that and damn. That shit over, they ain't getting in, they're going home. She ain't having to knock into us, we rolling back. Who got that? Taking all the ones that all the VIPs have. You little bosses, we rock, cause I'm in really fat. Drop on my coat to the girl and I hold it, they won't just do that. Skipping through the masses of people, trying to get sick to the ball. Rock, why is it every time this shit's over the fucking hard? Thank you, push boss, even though, sorry, bitch, I'm too damn far. It's Mr. Microphone, abuser, leaving verbal scars. Across the dance floor, signed to the DJ Guan Guo. Out to the MC, y'all from the mic, you're screaming out, who wants more? To the hands, they raise the trigger, fingers get pulled in the air. To the DJ, boots on the track, and the ravers jump up in the air. If you want to run hard, if you want to push hard, but these people standing in your way, try to stay calm. Don't scream. When you're getting lost in the past, with the doubt that's in your heart, if you feel you lost your way, don't scream. Run hard, you gotta push hard, but there's people standing in your way, try to stay calm. Don't scream. When you're getting lost in the past, with the doubt that's in your heart, don't scream, don't talk, don't utter, don't chat, don't panic, don't jump it, don't stop the dust, rap. I'm no threat, better get grip, stay on the rhythm, stay confident. Yep, double up on from here, a cappella, you can hear it clear. Missile flare, muscle flash, just like that when I turn up in the match. Power, hour, shower, flow, I don't stop when I'm lifting rows. Hands up, stand elevation, bag of rewinds, I saw celebration. Look at the room, we hurt the location, look at the world, we hurt the whole nation. Superstar, superfiend, you star, in me, Chinese man, dynamite. I'm still up for one line, I'm right. Yeah, man, heavyweight, Batman, and I'm a play heavy. Play, heavy day, drama something in the globe, I circulate, percolate, make it dance, bubble, pull it, 100 degrees, and when I'm close up under the knees, so when I'm like under the bees, hard to believe, it's almost over, but before we move over, you gotta do it like a theme, but remember, don't scream. Sharks, espero color del negro, cuál es, Hurricane Mix Day. Sono un ascendente per ascendere a niente da sempre. Se perdo alcuni interessi non è che non voglio niente. Io col cazzo che faccio giocato l'ho giunto distratto che spariva. Ad ogni preghiera ti ho fatto e questo è quanto. Se mi sento tradito non è che io sono strano e che non sono stupido. Io non comunico perché se lo facessi il giorno dopo sarei solo come se fossimo compromessi. Io non so mentire, piuttosto mi faccio chiedere il fatto che perdo amicizie. Lo può confermare, piuttosto muoio di fame, ma io non so cosa fare, piuttosto vivo a terra, ma forse sei cade la tua morale. Dai, e non c'è singolarità, se siamo tutti uguali come fossimo di cera. E non so se complesso l'uomo, la tua stupidità. Se mi sto lavando il culo con la tua bandiera, ho un casino in testa e lascio che questa ansia mi porti via da te. E dimmi quello che resta, se la fine di un ricordo rappresenta il tuo limite. Io sono pronto, perché ti affronto. Io sono il vero colore di questo mondo. Io sono pronto, io sono vero. E queste carne e ossa sono il vero colore del nero. Fondersi con rumore, la mia vita dentro al palmo di un inquisitore. Se ogni volta che respiro c'è una speranza che muore, come se questo rumore vivesse nelle persone. Ho gli occhi a terra come chi è sfinito, come chi ha capito che qualsiasi piena alternativa è già fallito. Vado troppo per comprarmi uno straccio che già fa schifo. Se per questo signoraggio c'è già un posto relativo. La nostra vita è sciolta dentro un mare di inchiostro. E mi annoio tra droghe di massa e la fame di un mostro. Dimmi cosa complotte, dimmi cosa hai risolto. Se morirai con la TV nel fosso, scavalco morti. Barracuda che puzzano i colli, salutano i giorni alterni dentro quei giorni soli. Dimmi sceni al massimo è come bevi. Se il tuo bilancino pesa, non ti pesano i problemi. Ho un casino in testa e lascio che questa ansia mi porti via da te. E dimmi quello che resta, se la fine di un ricordo rappresenta il tuo limite. Io sono pronto, perché ti affronto. Io sono il vero colore di questo mondo. Io sono pronto, io sono vero. E queste carne ed ossa sono il vero colore del nero. Vero colore del nero, vero colore del nero, vero colore. 11.55 su 105.250, ricordiamo ancora una volta i contatti 346-66-73-263, 011-24-95-669 per il fisso invece. E allora siamo in collegamento con Phil, come dicevamo in apertura di puntata, dopo aver sentito un po' gli ultimi sviluppi del lucernario, andiamo a collegarci con un'esperienza che ormai seguiamo da tempo, il terzo piano, biblioteca autogestita. Phil, ci senti? Sì, mi sento perfettamente. Bene, ciao. Allora, senti, sappiamo che appunto con l'arrivo dell'estate per il terzo piano si ponevano una serie di questioni, ovvero che cosa sarebbe successo al terzo piano stesso alla chiusura dell'università, dato che l'università stessa ha fatto presente agli occupanti che c'era un piano, diciamo, di razionalizzazione degli spazi di Palazzo Nuovo in cui l'autogestione non rientra. Sappiamo che venerdì c'è stato un incontro con il rettore. Dici un po' che cosa si è riusciti a fare. Sì, allora abbiamo incontrato il rettore dopo essere arrivati in rettorato con un breve corteo di quelli che erano un po' lo zoccolo duro di chi ha lavorato al progetto della biblioteca autogestita. Diciamo che questo incontro da una parte è stato un incontro che ci ha dato delle date fisse, cioè ci è stato detto che i lavori che devono fare sulla biblioteca non partiranno per mancanza di progetti, soprattutto per mancanza di fondi, cioè una cosa diciamo classica degli ultimi 3 anni della condizione universitaria, della vita universitaria, dell'università in generale, e quindi fino a gennaio per fortuna la nostra biblioteca in questo momento non sarà minacciata di uno sgombero imminente. Ma nello stesso tempo diciamo che il rettore della nostra università è un rettore che tende a essere molto diciamo concertativo, cioè nel senso che tende a voler neutralizzare, a voler anche un po' omologare tutti quelli che sono gli spazi e quelli che sono gli spazi studenteschi in generale. E quindi nonostante lui ci abbia detto questa cosa, che insomma fino a gennaio non ci sono progetti per il nostro spazio, noi continueremo a vigilare, perché ci sembra che questo rettore sia più attento alla gestione degli spazi, ma come un amministratore, e quindi cerchi sempre di far finta che non ci siano dei lati politici nella creazione di spazi critici all'interno dell'università, ma che ci sia semplicemente la creazione di aule studentesche, di spazi studenteschi anche molto anonimi, in cui lui ritiene così di poter risolvere qual è tutto il problema molto più grande della condizione universitaria, del precariato universitario. Quindi noi ci saremo e saremo lì a vedere in questi mesi che cosa vuole fare, qual è il suo modello di università, e gli staremo un po' addosso, questa è la questione. Bene, quindi diciamo un buon risultato sempre in questa di fronte a questo volto pulito, questo sorriso che Aiani continua a sfoderare di fronte a qualunque istanza, a qualunque vertenza e rivendicazione degli studenti. Quindi diciamo ve lo aspettavate, possiamo dire, questo atteggiamento conciliante. Questo atteggiamento è stato il classico del rettore diciamo che ce lo ricordiamo anche quando sono venuti a trovarci i ragazzi del FUAN a Palazzo Nuovo, insomma, cioè è un po' assolutamente sì, abbiamo visto lì, un po' il vero volto della politica, sì, di Aiani. Sì, il fatto che Aiani appunto ha questa modalità sempre sorridente, sempre molto dialogante, però poi nello stesso tempo è sugli spazi universitari, come vediamo anche al campus, lui sente questa esigenza ad esempio di fare una biblioteca nelle zone dove in questo momento i ragazzi di Campus Invaders hanno occupato un'aula, lui sente tutto questo bisogno di fare una biblioteca, però c'è anche un po' la puzza di capire chi sono quelli che devono appaltare, come funzionano quelle gare e quali sono anche quelle forze di cui Aiani si è servito per essere eletto, tutte quelle amicizie, tutte quelle convenienze, quei rapporti economici che tiene lui e tiene l'università e tiene la parte che lui rappresenta, che l'hanno poi permesso di essere eletto. Questo il rettore non viene eletto di certo perché è bravo oppure perché è bello, ci sono interessi importanti. Ayani da questo punto di vista è molto bravo a far finta di essere un uomo venuto dal nulla che vuole fare la cogestione con gli studenti, però poi nel momento in cui ci sono questioni di ordine pubblico la polizia fa l'accio nuovo entra lo stesso, come abbiamo visto. Bene, Phil, sicuramente rimaniamo aggiornati e rimarremo sicuramente a far parte della comunità che anima il terzo piano da ormai un anno e che comunque sappiamo che ha un ruolo importantissimo in università rispetto sia a questioni che viviamo sulla nostra pelle tutti i giorni in termini di battaglie politiche, come può essere stata quella per il caro libri, quella per gli spazi socialità, ma anche appunto il semplice godere della possibilità di autogestirsi, di avere uno spazio che che va avanti a seconda delle necessità e dei bisogni degli studenti. Grazie mille Phil e rimaniamo aggiornati su questo bellissimo progetto. Grazie, io vi saluto e vi auguro buona continuazione del programma. Grazie, buona giornata. Ciao. Bene, andiamo avanti con un po' di musica e poi andiamo a fare l'ultimo collegamento con Ippolita. Carriera barman, dai, versami ci cuta anche stasera, c'ho la lista nera, il vostro boss ne sa tutti i nomi, da buon hardcore contro music panettoni, figli di puttana sulle strumentali, ci hanno strumentalizzato le anime, cazzo t'aspettavi, l'arte è quella in ogni guerra, c'è i suoi mercenari, sono scemo io che ancora parlo di etica e maiali, sai, questi rapper fanno i saggi, si fanno quel pubblico di giovani e ragazzi, vogliono insegnare tutto a chi sta tutto bravo, se ci trovi giusto per me è un lusso dare esempio giusto a chi ha il futuro in mano, sai, abbiamo differenti strade, scelte miste, fasce su riviste, orbitano i soldi come su un'elisse, seguono una strada e li perdi sulle strisce, qua spaccate tutti man, ma chi è che costruisce? Quando il chic arriva in faccia vuole sangue sulla traccia, vuole un'altra notte passa, sai com'è che fa? Quando troppa gente cambia vuole soldi, donne e mamma, la mia gente chiama il sangue, sai com'è che fa? Pensa quattro stronzi come col governo, versano parole ma è silenzio, maggioranza, posizione come in Parlamento, poi non cambia un cazzo, di pop e strada e dorme sul cemento, sta attenta non mi si abbia questa merda finché ho una coscienza, cuore su una mano e sull'altra una mente aperta, è già cuore per la gente mia, la mente a gente vuota, cambi chi segue la moda solo andando di moda, non capisci, al capo ma sai bene chi comanda, bravo Max, brava Giuzzi, brava Gian, bravi tutti finché rappa il cazzo duro e pieno, soldi sulla vostra faccia e io faccio l'amore su un'altra traccia, le parole di chi parla mutano i pensieri nella testa di chi ascolta e le sente, i pensieri sono un'arma, ti rendono chi sei, per questo tutti parlano di niente, quando il chic arriva in faccia vuole sauro sulla traccia, vuole un'altra notte basta, sai com'è che fa, quando troppa gente cambia vuole soldi, donne e mamma, la mia gente chiama il sangue, sai com'è che fa, sa com'è che va. Sono che sfonda, un trono nell'ombra, un luogo tormentato dalla baraonda, una mezza baratomba per la notte fonda, quanta mare in cui non conta quanto ammonta la mia vaga, il mio segreto merce rara, custodito dalla gente che remana le sue schegge per la strada, la legge di chi spara se il nemico sgara, qua non regge, Roma è già abbastanza mare, non se regge, no? È la mattanza delle bestie con le teste in linea, è la fattanza nelle teste sotto effetto rima, è una matita tra le dita per la vita ed ogni riga è sopra un giorno di dolore come liga, e non si placa mica, nessuno caga e riga, solo la linea della vita obliqua verso la salita, l'hai già sentita, forse è musica bellissima, seguita da una nicchia piccolissima, è la mia gente, è quella che ci segue, è quella che supporta sempre bro che spiga, che ci crede, loro hanno fede, per questo io ci credo, e se c'ho sete, grazie alla loro forza mi dissese, giorni pezzi e freddi, giorni intensi dove il caldo non lo reggi, questa notte perdi sensi, io mi ci spacchi in quattro, se, e per questo mi ci attacco così forte che sta cosa non la lascio, no? Ci vivo insieme, un sottofondo lieve che diventerà più greve se la gente ce lo chiede, a me mi preme dirti questo, come ha detto Daniele, ce nasco, ce vivo, ce cresco, la musica da massa mi ammassa, la mia gentaccia spacca quando tratta questa merda e te la tira in faccia, sto con Lucci quello estremo, sai che è vero, fate meno, se per fare quel che fate basta fare zero, senti le rime del Franzenio quando porta il vero, come Silvano nada bling bling, resto serio, underground sound stile broken speakers, niente bla bla, c'è di meglio delle sneakers, qua nella mia città giungla, sto con la gente che ci sta, anche se non sa come butta, in questa scena farabutta, c'ho rime sedative, te le porto clandestine, sempre col mio stile, ce l'ho per ogni vile che non se la vive, ce l'ho pure per chi ha solo testa, penne scrive, solo rap fuori dal club che ritorna nelle strade, se ci state fate bene, se non fate rate, pranzo, 16 battute, è il tempo che ti uccide, una strofa a serratura che si chiude, cerca bene perché non c'è niente che mi illude, no, a pezzi le mie rime sopra un piatto per darti le crude, il più tradizionale, un destro con gli anelli fatto bene, rompe il culo a staffetone senza ritornelli, lascia fogli sopra il tavolo a brandelli, tu lo prendi e per te il rap è solo un pugno di gioielli, qua non ti sbagli, è tutto vero, un pezzo del vissuto più sincero, fuori dalle casse dello stereo, manda a casa il tuo guerriere, la tua banda calca l'onda mentre affonde passi fuori per l'ora di punta, non c'è calma, no, un nervo che mi salta ogni mattina, se un litro di china dentro la fondina, io faccio il rap per ogni member da cantina, crepi prima la mia merda è nuda e cruda, ti stacca la spina. Sai che spacca, la stroppa che ti rappa la tua testa flippa, adesso canta tu, vediamo chi è che strippa, faccio rap, solo rap, tu ci ridi sopra, ci giochi ma con rap non ci si gioca, sai che qui parcorso solo a troll per questo, se non ti piace è una questione di testa e non solo di gusto, quindi vai, non ti do quello che vuoi, zero re, zero gabber sopra il colle, soltanto di poi, niente storie strane, troppe cose a puttane, troppa gente che cambia in due settimane, resto sordo, cieco, muto, pure se mi prende bolle in testa resto qui seduto e rido, non ho motivo per alzarmi, per confrontarmi, se vuoi dammene un te ma non cercare di fregarmi, perché sto cercando di lasciarti qualche cosa che ti resta dentro la tua testa se non lo cancelli, sto coi lupi perché sono tempi cupi, bevo birra ma non serve per tappare i buchi, non regalo niente quando volo, io non faccio flop sopra il colle del momento, niente trip, niente trip hop, solo hip hop e Cristo io non capisco, un meccanismo c'è ma l'hanno messo ben nascosto, se mi paghi tipo ma se cerchi storie tipo DJ Flash, quelle non le faccio neanche che per il cash, cash, perché cash, sono l'hardcore, non regalo niente perché ho preso solo l'hardcore, perché ho solo l'hardcore, non regalo niente perché ho preso solo l'hardcore, perché ho solo l'hardcore, non regalo niente perché ho preso solo l'hardcore, perché ho solo l'hardcore, non regalo niente solo l'hardcore, 10, 100, 1000 volte, pure se è pesante devo può essere forti. Sempre solo secolaria con una sigaretta accesa, carta e penna nella stanza chiusa. E non c'è scusa, solo hardcore, guardami negli occhi. Io cerco un modo per star bene, giorni amari troppi. Chi non ha niente da dire è meglio che non dice niente. Ma quel che sento mi fa chiara male, sempre più pesante. Quanto mano vero e qualche cosa ti rimane. Se parli parla in faccia, se non sei un infame. Non vali di cose a cazzo troppe in giro. Non puoi comprarmi perché scrivo, quindi sono vivo. In testa vedo show che la TV non puoi vedere. Aspetto il giorno perché è notte ma non puoi capire. E non mi puoi seguire, è una questione di mentalità. Se c'è soltanto la facciata la casa non c'è sta. Soltanto una vetrina come esca. So bene chi sei e non mi aspetto che tu capisca. Veloce con un flipper se lo fai piottare. Coatto per necessità per continuare a fare. Sempre solo hardcore sopra il colle del momento. Un flippo solo hardcore mentre cambia il vento. Io resto uguale solo hardcore per necessità. Se spendi certe cose non ti inculo, questa è la realtà. Perché flippo solo hardcore, non regalo niente. Perché flippo solo hardcore, perché flippo solo hardcore, non regalo niente. Perché flippo solo hardcore, perché flippo solo hardcore, non regalo niente. Perché flippo solo hardcore, perché flippo solo hardcore, non regalo niente. Perché flippo solo Dodici e dodici sulle libere frequenze di Radio Blackout, Parole Ribelli non regala niente perché flippa solo hardcore e siamo in collegamento con Naidi, Ippolita, come dicevamo in apertura di puntata, e ci facciamo un po' spiegare meglio da un membro del collettivo di Filosofia Radicale Ippolita il contenuto della loro ultima pubblicazione. Anaì, ci senti? Pronto, ciao a tutti, grazie, sì, sono qui. Grazie a te. Allora, entriamo un po' subito nel vivo della questione, come del resto fa anche un po' il titolo della pubblicazione, La rete è libera e democratica, falso. Allora, un po' spiegaci, ma a grandi linee, quello che poi di fatto è un luogo comune e anche un po' la necessità che sicuramente condividiamo, però che volevamo un po' anche analizzare. Dall'interno rispetto a appunto il bisogno di smontare questo luogo comune, di non lasciare che questo sia di fatto il pensiero dominante incontrastato che viene poi applicato sulla rete. Sì, dunque noi siamo molto contenti di aver pubblicato con La Terza un libro copyleft, perché insomma non è assodato che si riescano a fare delle pubblicazioni libere oggi in Italia, invece ogni tanto è possibile, quindi siamo molto contenti di questa collaborazione con La Terza, che è una grande casa editrice. E siamo contenti che abbiano voluto inserirci dentro proprio la collana Idola, che è Libri contro le false certezze, per cui questa idea di smontare la democrazia elettronica, la retorica della democrazia elettronica si sposa proprio anche un po' con la filosofia della collana. Quello che abbiamo fatto è stato, come dire, un pamphlet che insomma ha ripercorso alcune delle strade classiche di Ippolita per poi approdare, diciamo, a dei falsi sillogismi, no? Per cui dal momento in cui si crede che Google contenga la rete, allora si crede che, come dire, la rete sia un ambito completamente collegato, completamente chiuso, completamente paritetico, mentre invece la rete è una cosa più complessa. E da lì, insomma, poi il libro si snoda e non voglio anticiparvi niente su questo. Perfetto, grazie per non fare da spoiler. No, sì, è importante perché poi alcuni temi sono temi classici, però insomma altri giochini divertenti sulla retorica nel libro ci sono l'ultima parte, vorrei che ve li gustaste, insomma. Grazie mille. Allora noi per i nostri ascoltatori facciamo un po', ricordiamo anche che le vostre precedenti pubblicazioni nell'acquario di Facebook e Luci e Ombre di Google, che comunque andavano un po' sempre a, come dicevi tu appunto, qua riprendete dei vostri filoni, abbiamo visto che comunque il vostro lavoro in termini di smascherare un po' queste retoriche, ma anche e soprattutto restituire alla rete uno statuto, diciamo, di spazio, tanto quanto possono essere gli spazi fisici, perché appunto anche questa tematizzazione della rete come non luogo poi fa sì che sia spianata la strada per cose, per credenze come quella del titolo della vostra ultima pubblicazione, mentre crediamo sia molto importante che qualcuno faccia questo lavoro in cui invece restituisce la dimensione un po' più complessiva, anzi complessa, non piana, di questo spazio che poi viene attraversato da ognuno in maniera diversa. E proprio a questo proposito, perché appunto voi lo centrate molto molto bene nel corso di tutta la pubblicazione, però ci sembrava che fosse un po' uno il tema in cui veniva alla luce anche la controversia dei diritti in sé per sé, delle concessioni dall'alto piuttosto che quelle dal basso, ovvero in realtà in un'intervista rilasciata poco tempo fa voi fate una riflessione sul diritto all'oblio, diciamo una riflessione che appunto non glorifica la concessione del diritto, ma ne porta fuori anche un po' le contraddizioni. Ti va di farci un po', di spiegarci un po' di che cosa si parla, di rendere anche i nostri ascoltatori edotti al riguardo? Sì, dunque la domanda che ci faceva il giornalista era che cosa pensassimo un po' noi della questione del diritto all'oblio. La questione è che, come dire, si tratta un po' di uno specchietto per l'allodole, insomma. La questione non è, cioè, pensare che un utente debba scrivere a Google attraverso un'email, un utente europeo, parliamo di 28 paesi, e che Google possa aver attivato un ufficio competente che risponda ad ogni email e che dia, come dire, anche una risposta tecnica per cui valuti se effettivamente è possibile, perché questo rispetta le normative europee, levare o meno un link che lo riguarda, insomma, è abbastanza, come dire, arbitrario e un po' fallace, nel senso che Google non lo farà mai, non metterà mai in piedi un ufficio che si dedica interamente a questa cosa qui. Verranno date risposta soltanto ad alcune delle richieste, questa cosa sarà completamente simbolica e lì finirà, nel senso che chi poi letteralmente riuscirà a far togliere le proprie informazioni da Google saranno quelle persone che hanno uno status sociale che non è quello del cittadino classico che è stato riempito di insulti semplicemente perché si trovava, ha detto la cosa sbagliata nel momento sbagliato su, come dire, un forum X, ma qualcuno che invece ha delle ragioni, come dire, politiche, sociali, di rilievo, per cui quella persona verrà ascoltata e altre no. Ci sono delle problematiche di classe che nella rete vengono, come dire, si rispecchiano così come sono nella realtà. Ecco, quindi appunto torna un po' quello che poi, come dicevamo prima, una nervatura fondamentale del vostro lavoro, perché diciamo voi fate anche un'ipotesi di lungo periodo rispetto a un po' proprio l'architettura dello spazio web, passami il termine, nel momento in cui appunto questo tipo di processi qui voi azzardate prefigurino poi appunto una serie di divisioni e che quindi si riproduca all'interno della rete quella che è una differenza che si vive in maniera molto esplicita già invece fuori, che vediamo nelle università, nell'accessibilità ai saperi, piuttosto che la sanità, piuttosto che i servizi, piuttosto che i quartieri. Quindi tu, diciamo, appunto, noi azzardavamo un po' questa lettura perché ci sembrava dalle vostre parole che una lettura assolutamente corretta, cioè in questo momento la società è entrata in rete, no? Si dice, tra virgolette, per cui noi stiamo facendo un'esperienza che è primariamente un'esperienza di massa, come tutte le esperienze di massa, che siano i grandi scioperi, i cortei, lo stadio, eccetera, sono esperienze estremamente importanti da un punto di vista emotivo, sono esperienze di fusionalità. Ora, questa esperienza di fusionalità però è un'esperienza che dal punto di vista della rete viene gestita interamente da società private, come per esempio Facebook. Da questa grande massa di insieme usciranno poi delle, come dire, delle, delle variazioni sul tema. In questo momento stiamo sperimentando, come dire, questa idea della massa, questa idea del sentirci cittadini parte di qualcosa. Sperimentiamo la presa di parola pubblica all'interno di uno spazio che è privato, e a partire da questo poi ovviamente succederanno delle altre cose. Un grande esperimento di ingegneria sociale. La questione è cercare di capire un po' noi come siamo collocati, cosa vogliamo dire rispetto a questo, e anche come vogliamo che sia il futuro per noi nella rete. Per cui, insomma, Ippolita insiste molto anche sull'autoformazione, sulle esperienze della, dell'autonomia digitale. Ci sono un po' di esperimenti che è importante che noi cominciamo a fare rispetto a questa esperienza della rete, della società in rete, eccetera, eccetera, eccetera. Sicuramente, guarda, le riflessioni che partono solo da questo breve scambio sono veramente infinite, perché appunto tu paragonavi all'esperienza della rete e l'esperienza di massa, portando giustamente la differenza della mediazione poi di fatto, perché se sono, diciamo, se siamo allo stadio nessuno può mediare quel che ci diciamo in maniera esplicita, mentre sappiamo tutti che un commento su Facebook può essere bannato, rimosso, a completo appannaggio del social network stesso. Quindi anche sul diritto all'oblio, questo cortocircuito in cui è colui che deve, diciamo, rispettare la norma a dettare la norma stessa, diventa questo paradosso, rende abbastanza, fa tornare un po' tutta una serie di ragionamenti che voi di linee di ragionamento che voi, che voi portate avanti. E sicuramente poi appunto l'ultima cosa che hai detto rispetto all'autoformazione, comunque ai processi che si possono mettere in campo nel, appunto, rispetto a quella che poi di fatto è una posta in gioco, perché la rete non è libera e democratica, ma non è neanche completamente chiusa. Usa completamente, come dicevi tu, completamente egemonizzata. Si tratta di inoculare all'interno comportamenti e pratiche che poi ne cambiano la natura. Quindi tu hai qualcosa, diciamo, volevi, ci puoi dare qualche informazione in più, dare un po' di riferimenti per chi si volesse affacciare? Salto, certo. Adesso alla fine del mese, il 27, 28 e 29 di giugno, ci sarà ECK Meeting e sarà all'XM24 di Bologna. L'ECK Meeting è il raduno nazionale delle controculture digitali italiane ed è un luogo dove chiunque può andare liberamente e dove è possibile cominciare a guardare che alternative le comunità digitali stanno mettendo in campo, che cosa stanno combinando gli hacker, io che cosa posso fare. Sono momenti in cui, diciamo, con soglie differenti è possibile incontrare persone con cui parlare, discutere, iniziare a fare attività, mettere in piedi collettivi o anche semplicemente decidere di cominciare a utilizzare il buon vecchio software libero e quindi di installare Linux al posto che Microsoft o Apple. Assolutamente, che già fa una differenza abbastanza sostanziale poi di fatto nei nostri computer. Praticare a livello individuale, poi costruire reti, come dire, cercare di mettere insieme anche competenze diverse. Per esempio Ippolita è un gruppo dove, insomma, non sono tutti hacker o non sono tutti letterati, noi siamo un gruppo di persone che arrivano da esperienze disciplinari diverse e che quello che fanno è essenzialmente osservare un oggetto tecnologico e poi cercare di tradurlo attraverso la propria lingua, in modo che poi questo oggetto sia osservato a tutto tondo. Per cui, insomma, cerchiamo di meticciare le competenze, cerchiamo di fare un lavoro interdisciplinare, quindi lavoriamo attraverso delle grandi cartografie per osservare questi oggetti. Ecco, noi crediamo che questo metodo, per esempio, sia un metodo interessante, cerchiamo di esportarlo, insomma, per cui andiamo a parlare con gli hacker, ma andiamo a parlare anche con chi si occupa di letteratura, di filosofia e parliamo con loro di tecnologia. Sicuramente la vostra è un'esperienza che è una trasmissione come la nostra non può che essere almeno idealmente molto vicina, perché è da sempre che anche caldeggiamo non solo l'accessibilità dei saperi, e hai fatto bene a ricordare che la pubblicazione sulla Terza in copyleft, perché sono piccole vittorie anche queste comunque, ma poi anche e soprattutto quelle griglie disciplinari che poi rimuovono sono tante complessità, fanno sì che anche un po' rispetto alla rete a noi interessava molto parlare direttamente con voi, perché ci sembra anche che ci sia un po' questa una sorta di fotografia positiva, la rete è libera e democratica, a cui però appunto con questo falso, con le vostre riflessioni in maniera più ampia, non si può contrapporre una fotografia negativa che dice no, è tutto il contrario di tutto, bensì sicuramente anche un approccio con più punti prospettici, come credo sia evidente, certo, voi adottate anche per l'ampiezza con cui trattate i temi, diventa in qualche modo già non solo ricchezza nei termini di analisi, ma anche proprio pratica che, se diffusa, se massificata, poi di fatto fa una differenza anche notevole nel tipo di saperi che andiamo a formare, nel tipo di conoscenze con cui nutriamo un po' le nostre menti e non solo. Beh, per esempio, noi per parlare di massa, per cercare di capire un po' che tipo di esperienza sia questa esperienza di massa che noi andiamo a fare sulla rete, abbiamo utilizzato un autore antico, direi, che si chiama Elia Scanetti, che ha scritto un libro che si chiama Massa e Potere. Bene, Elia Scanetti non era idea di quello che sarebbe successo, come dire, all'oggi, però parla molto bene di massa e lo fa da antropologo, con uno sguardo antropologico. È molto interessante andare a guardare come la controparte virtuale della massa in realtà si porti dietro una serie di caratteristiche che sono proprie anche della massa fisica, compresa quella della compartecipazione psichica, che è una cosa che noi abbiamo per esempio imparato dopo Genova. Che cos'è la compartecipazione psichica? È quell'elemento per cui anche se io non sto facendo nulla, sono ferma, non partecipo di un atto, di un gesto, comunque con la mia presenza positiva rispetto a quel gesto, io compio quel gesto insieme ai miei compagni e alle mie compagne, cioè sono dentro quella dimensione. Questo elemento della compartecipazione psichica è una cosa che magari noi politicamente non abbiamo esplorato più di tanto, o meglio l'abbiamo esplorata laddove ci è stata data come capo di imputazione, per cui al negativo. L'abbiamo magari vista in maniera positiva quando abbiamo affrontato invece meglio la questione dei rave. Chiunque sia stato a un rave e abbia passato tutta la notte a ballare sotto le casse sa che cos'è la compartecipazione psichica. Ora, quello che noi abbiamo cercato di fare è stato: andiamo a vedere come queste funzioni si realizzano all'interno di quella che per esempio è l'esperienza dei social network. Che cos'è per esempio questa roba del voyeurismo, dell'osservare, dell'essere guardati, del partecipare psichicamente di quell'esperienza anche quando magari non commentiamo, ma semplicemente, stiamo a guardare che cosa succede nelle comunità che attraversiamo? Ecco, noi abbiamo cominciato a farci domande di questo tipo, abbiamo chiamato in causa degli autori che generalmente non vengono chiamati in causa, come Canetti. È un po' la nostra idea di, pensiero critico. Proviamo a fare degli esperimenti, vediamo se queste analisi funzionano, mettiamole per iscritto, cerchiamo di studiarle un po' tra di noi finché non riusciamo a fare delle proposte che attraverso dei libri possano andare a inserirsi in quel grande panorama che è la critica della rete, mettendo insomma il nostro piccolo contributo. Possibilmente, come si diceva, copyleft. Bene. Maranai, grazie mille, credo che la conversazione di fatto potrebbe andare avanti per sempre, perché è stato molto interessante. Assolutamente, abbiamo messo un sacco di carne al fuoco e poi appunto l'università è un'università di massa, per quanto si sta cercando di farla scomparire, è ancora una posta in gioco, quindi sicuramente gli incroci anche rispetto al mezzo che viene sempre più utilizzato negli Atenei, il mezzo della rete comunque aprirebbe appunto a una quantità di riflessioni che si potrebbero fare insieme, a cui dobbiamo purtroppo mettere un freno perché abbiamo dei limiti di tempo, grazie mille, e sicuramente Parole Ribelli rimane sintonizzato sugli esperimenti di Ippolita, perché finora sono stati molto interessanti. Sicuramente ci aspettiamo alla meeting, ragazzi. Ci vediamo all'Hack Meeting, assolutamente. Ricordiamo ancora una volta chi si è sintonizzato ultimamente, il 27, 28 e 29 giugno all'XM24 di Roma ci sarà l'Hack Meeting italiano, e, appuntamento delle controculture digitali per, diciamo, per amatori e non. Quindi grazie mille ancora Nai, grazie a Ippolita per il lavoro che fa, e speriamo di risentirci presto con un nuovo esperimento. Alla prossima. A te, grazie ancora. Solamente spazzatura. Senza un vero valore, io il flow termovalorizzatore. Sei nel limite, tu molla il campionatore. Sei giù da sputa beat, loro defibrillatore. Fanno rap di protesta, danno il loro parere. In piazza non li si vede, il padre carabiniere. Abbatto queste barriere, i miei incastri sono cerniere. Fu un nuovo mondo, fecondo senza frontiere. Clandestino senza arrivo, viaggio di cuore in cuore. Cerco il mio destino, del vino un po' di calore. Ho il fuoco nell'intestino, ma freddo il calcolatore. Ho lo spirito cattivo, e ci faccio questo liquore. Non parlo di pop, sti rapper li schernisco. Le skills, le punchline che fate sono un annismo. Ehi, ci fai, ci sei? Ma quali contenuti il vostro pop? Fuori pop fake, e non è che moralizzo, frega cazzi. Ma un gran parlare di metriche e sintassi, di etiche e di prassi, di casse e di passi, del loro orgoglio facile a dimenticare e passi. Per me che crepino, andavo con Monti se volevo fare il tecnico. Non è questione di merito, né di edito, è quello che trasmetti a darti credito. E adesso che anche l'hip hop è arte, sembra un rodeo, tu scegli la tua parte, esposto in qualche museo. Ma le rime che creo in questa babele sono uno squarcio irrimediabile sopra le tue tele. E poi non fermarmi, lascia che parli. Sono tutti al core prima dell'after party. Gli altri spingono conscious per affermarsi. Questo è Riot Trap, molotov e scappi. Old school, new school, fanculo gli iconoclasti. Ma ascolti quello che rappi. Nessuna lezione, è uno sfogo, non che serva. Ma se spegni il beat, torno nella caverna. E sulle rime del nostro Moika noi ci prepariamo a salutarvi. Alle nostre spalle Maurizio Scalpita per poter leggere il GR, quindi lasciamo i microfoni all'informazione di Blackout. Come vi avevamo annunciato, Parole Ribelli, data anche la concomitanza di sessioni di esami e partenze, vi saluta per qualche settimana. Vi invitiamo comunque ovviamente a rimanere sintonizzati sulle libere frequenze di Blackout. Questa settimana ci sarà anche la Blackout Fest in quel dello spazio 211, quindi non mancate. Noi vi salutiamo e vi auguriamo una buona giornata. E una buona giornata a tutti e tutte anche da Eddie. È stato un bellissimo anno insieme agli ascoltatrici e gli ascoltatori di Parole Ribelli. Grazie a tutti e tutte di averci seguito. Eddie e Fra vi salutano e torneranno presto, sperando di fare delle vacanze nel frattempo. Il modo di scalpitare di Mauri è tutto un programma. Io vi consiglio di fare questa esperienza nella vita. Fate un salto alla festa di Radio Blackout, sicuramente lo troverete che scalpita dietro a un bancone. Bene, buona giornata. Parole Ribelli va in vacanza.